La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta e vi dà il benvenuto alla versione di Oscar di oggi, martedì 5 novembre 16:36 primi 55 secondi. Ecco, ogni tanto faremo trasmissioni come quella di oggi, dove, visti i pochi minuti che abbiamo, non ci sarà un ospite, ci sarà solo un tema chiedendo a voi di dirci come la pensate. Quindi il numero, io ve lo ricordo, è 800 24 00 24, per chi non se lo ricordasse, perché non è un affezionatissimo di Radio 24, perché è sempre lo stesso in tutte le diverse trasmissioni, 800 24 00 24. E la domanda è: siamo venuti al momento nel quale, secondo voi, bisogna mettere mano a cambiare le regole dell'euro, i criteri del 3% di deficit, del 60% di PIL di debito pubblico? Bisogna inventare qualche cosa di diverso, perché ha ragione i tanti, tantissimi economisti delle più diverse scuole e milioni di italiani, da quello che si vede nei sondaggi, che pensano che con queste regole dell'euro sarà l'euro a mangiare l'idea d'Europa e non certo a rafforzarla. Bisogna cambiarle, e come, questi criteri, visto che, lasciando perdere come la penso io sul fatto che abbiamo approfittato troppo dei primi 8 anni dell'euro, che oggi bisognerebbe tagliare la spesa e non aumentare le tasse, che bisognerebbe fare le dismissioni pubbliche, ma mettiamo questo nell'angolo. A oggi noi abbiamo un debito pubblico che è passato dal 2010, dove stava al 119% del PIL, siamo al 133% e continuerà a salire. E avete visto le previsioni al ribasso venute ieri dall'Unione Europea nei confronti di quello che dice questo stesso governo, il governo Letta. Sono andato a guardarmi due cifre, mentre aspetto le vostre prime telefonate per darvi la parola, su come sta la situazione in Grecia, e voglio dirvi solo questa cifra qua, che è una bella fotografia, una pessima, dolorosissima fotografia di come i greci si trovino, avendo dovuto ovviamente veramente imbarcarsi in questi ultimi 2 anni e mezzo in un programma lacrime e sangue. Pensate che il numero di famiglie in Grecia che non riesce a pagare le tasse, che sono molto aumentate in Grecia, è arrivato a settembre al numero di 2.600.000. E queste 2.600.000 famiglie, sapete quanto devono allo Stato greco come richieste per gli anni pregressi accertati e notificati loro? Sapete quanto devono allo Stato greco? Devono queste 2.600.000 famiglie la bellezza di 22 miliardi di euro allo Stato greco. Sapete quanto sono le imprese in Grecia che sono nelle stesse condizioni, cioè si trovano a non poter fare fronte all'aumentata richiesta fiscale dello Stato? Sono salite a 526.000, tenete conto che stiamo parlando della Grecia, non dell'Italia. 526.000 è un botto clamoroso, vista il rilievo dell'economia greca, molto più piccola della nostra. Sapete quanto devono allo Stato greco? 39 miliardi di euro, e di queste solo 670 milioni, cioè un ottantesimo, poco più di un ottantesimo, è stato per il momento sottoposto a un programma di rateazione in 12 rate. Tutto il resto il paese non sa come pagarlo. Ecco, queste sono alcune delle premesse. Iniziamo con alcuni di voi. C'è una telefonata, Marco da Milano. Prego Marco. Buonasera, buongiorno Oscar, complimenti di trasmissione. Ho votato per lei le vecchie elezioni, credevo in lei anche. Vabbè, questo posso chiedere solo scusa a te come a tutti, però detto questo, ma come la pensi sull'euro, le regole dell'euro? Io penso che non vanno cambiate le regole dell'euro in campo europeo, secondo me va cambiata proprio la concezione dell'Italia e dell'economia italiana. Cioè, secondo me, ok, le tasse sono troppo alte, però secondo me si dovrebbe costruire un sistema dove tutti riescono a pagare, in modo che non è che bisogna cambiare le regole dei tetti dei debiti o dello sforamento del 3%, che secondo me è giusto da una parte, perché bisogna dare una linea di rigore. Bisognerebbe cambiare il modo di raccimolare tasse, a chi chiedere le tasse e come chiederle. Cioè tu dici, il problema è che a pagarle siamo sempre gli stessi, troppi, esatto, naturalmente lavoratori dipendenti e i soliti noti rispetto non, a tutto il resto. Non anche solo i dipendenti, ma anche quelli con la partita IVA, i piccoli artigiani. Ne abbiamo parlato in questi giorni, sì. Vengono sempre vessati. Cioè, secondo me è anche una cosa stupida, come in Cina. Se ti fai lo scontrino ti danno il gratta e vinci, ma è una cosa stupidissima, ma è un esempio che incentiva a fare lo scontrino. Oppure se io faccio un lavoro a casa, se tu viene rimborsato dallo Stato, quindi mi incentiva a me a richiedere la fattura. Sono tutte queste cose che secondo me farebbero entrare nello Stato più soldi, potrebbero detassare gli stipendi delle persone e questo porterebbe le persone a consumare di più, e quindi consumando di più ci sarebbe anche lì un'ulteriore entrata fiscali nello Stato, e secondo me non ci sarebbe il problema del tetto del 3% o dello sforamento. Poi chiaramente bisogna ridurre la spesa pubblica, però bisogna ridurla non con tagli lineari ma con tagli giusti, non alla sanità o all'istruzione, ma certamente togliendo il Senato, diminuendo i parlamentari, che vabbè sono cose non... Però tu dici il problema è farle. Quanto alla domanda interna, hai naturalmente ragione. Sono usciti oggi dati aggiornati proprio all'inizio del pomeriggio sul gettito IVA nei primi 9 mesi di quest'anno, settembre incluso, gennaio-settembre 2013 su 2012, e il gettito IVA nei primi 9 mesi di quest'anno è diminuito rispetto al 2012 di 3,6 miliardi per la diminuzione delle attività interne, la domanda interna che dici tu, e anche per è diminuito anche per la quota delle molto minori importazioni. Noi stiamo migliorando la nostra bilancia dei pagamenti perché ovviamente con la crisi di domanda interna importiamo molto molto meno. Pensate che il calo dell'IVA sulla sola componente delle minori importazioni è meno 21% nel 2013 rispetto al 2012, e questo, ulteriore riflessione, lo Stato può alzare le aliquote quanto vuole dell'IVA, ma come vedete con questa domanda interna così poi raccoglie ancora meno gettito. Grazie Marco, ci hai detto il problema non sono le regole europee, bisogna cambiare i criteri con cui si paga in Italia. Sentiamo Carlo, sempre da Milano. Buongiorno Nicoletti. Eccoci, sono Giannino, ma va bene lo stesso. Allora, Giannino, va bene. Non si preoccupi, Radio 20, l'essenziale è Radio 24. Ci dica. Sì, dunque, io credo che la cosa importante siano veramente che i protocolli i protocolli che devono essere seguiti da noi in Europa sono molto importanti che ci siano, che vengano assolutamente rispettati da tutti, in modo tale da vedere dove dopo e solo dopo dove si può intervenire per cambiare le cose. Ma finché tutti abbiamo dei protocolli di spesa completamente diversi, non riusciamo a capire dove bisogna intervenire. Un piccolo esempio nella sanità. In Messico uno non può comprare una siringa se non nel centro medico centrale, non viene autorizzato se la spesa è giusta. Noi scopriamo una differenza del 600-700% dell'acquisto da una seringa all'altra sul cartaceo 4 anni dopo. Eh sì, e lei dice quindi il problema, anche insomma, lei la prende da un altro punto di vista, però è abbastanza d'accordo con Marco, dice prima di prendercela con le regole europee andiamo a vedere bene come spendiamo nel nostro paese. Un'altra aggiunta che posso fare, ma di questo parleremo domani, parleremo proprio di sanità, è che noi siamo un'eccezione rispetto alla stragrande maggioranza degli altri paesi europei avanzati, per esempio per quello che riguarda il consumo di farmaci. Noi compriamo confezioni di farmaci, mentre nella maggioranza degli altri paesi si prendono farmaci in dosi per l'uso. Ovviamente questo significa un abbattimento della spesa totale dei farmaci molto molto rilevante, oltre che a diminuire il rischio di abusi di farmaci o di utilizzo di farmaci scaduti, che poi avviene quando li si trova nelle case italiane. Adesso abbiamo le informazioni stradali e poi torniamo con Ezio da Varese. Si prepari. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:46 primi 14 secondi. Alcuni di voi ci mandano gli sms al 349-238-6666. Chi per esempio scrive noi con la lira in realtà siamo cresciuti, forse troppo, forse male, ci siamo anche un po' scavati la fossa, ma comunque con la lira crescevamo. Io sono convinto che questa sia un'opinione molto diffusa tra gli italiani oggi. Allora, eravamo con Ezio da Varese. Prego Ezio, come la pensi? Signor Giannino, buonasera. Buonasera. Sono molto contento di parlare con lei, finalmente sono riuscito. Grazie. io sentendo la trasmissione, quindi parlando di euro, parlando di queste cose, mi permetto solo di dire una cosa. Beh, innanzitutto io premetto che lavoro all'ILVA, la famosa ILVA di Taranto, per la quale tanto si è parlato e tanto si è discusso, quindi ho presente il problema Italia in tutte le sue varie componenti. Lei lavora in uno di quegli stabilimenti di Taranto? No, commerciale. Ah, lei lavora commerciale, ma proprio a Taranto, ok. Io vendo i COIS che Taranto produce, quindi vivo in prima linea. Speriamo che continui. Sì, lunga vita all'Ilva. E riguardo a quello che lei ha introdotto, ma a me sembra una cosa abbastanza chiara e il mio parere è il seguente, cioè l'euro come moneta unica secondo me ci ha fatto fare un salto in avanti epocale rispetto alle monete nazionali, locali e via via. Il problema vero è l'impianto di regole che sta dietro l'euro, a partire dalla banca centrale, a partire dalle regole dell'eurozona, scambi, questione fiscale e via discorrendo, e poi si innesca il problema Italia puntuale, che è quello da un lato di una spesa pubblica che ormai ha esondato da qualunque parte e dall'altro dalla burocrazia che tutti i giorni, io faccio il venditore, ripeto, ma chiunque può dirlo, ci si scontra con burocrazie di tipo quotidiano, di tipo zonale, di tipo nazionale, che oramai non se ne può più. Nel terzo millennio in un paese che si definisce occidentale del primo mondo. Quindi anche per te in realtà ci sono anomalie, soprattutto in Italia, prima che in Europa, mi pare di capire. Resta il fatto, ti faccio solo un esempio, oggi certo. Ennesimo editoriale su Corriere della Sera del professor Alesina e Giavazzi, per l'ennesima volta. Io la penso come loro, fanno l'elenco di quello che andrebbe ceduto dello Stato per abbattere il debito, poi nell'ultima riga dicono però prendiamo atto che fino a questo momento la politica, destra, sinistra, da questo punto di vista non c'è una grande differenza, non è disposta a fare questo poi per abbassare anche le tasse tagliando la spesa, e allora attenti, loro concludono nelle ultime tre righe, secondo me quelle a cui la politica italiana è più attenta, nel dire se non fate così poi vi dovrete beccare una mega patrimoniale. Come si fa? Bisogna essere realisti e prendere atto che dopo anni in realtà anche quello che dici tu è la politica non riesce a farlo, e nel frattempo quindi la domanda interna cade ancora di più e stiamo nelle condizioni in cui stiamo. È realista dire, continuare, mi ci metto per primo, a dire tagliamo la spesa, abbattiamo il debito con le dismissioni, se poi la politica non lo fa? O nel frattempo non dobbiamo dire anche tra paesi eurodeboli nei confronti di questo euro che funziona così abbiamo bisogno di cambiare qualche regola? Assolutamente sì, ma oltretutto attenzione, io è che lavoro all'Ilva e ricordo che sono entrato con i pantaloni corti e servivo come commerciale un sacco di aziende dell'industria elettrodomestica. Oggi tutti quei nominativi non ci sono più. Io se leggo gli elenco clienti di quando io sono entrato nel 96, quindi dopo l'acquisizione Italsider, io avevo con il mio capo una serie di nominativi che oggi non ci sono più perché si sono spostati. Ezio, ti devo interrompere per passare ad altri. Abbiamo visto in una delle nostre puntate che il volume in un decennio dell'industria bianca, come i milioni di pezzi, è calato del 50% nel nostro paese degli elettrodomestici. Abbiamo sempre da Varese Colombo, mi dicono Colombo? Sì. Eccoci qua, come la pensa lei? Penso che a un certo momento le pensioni dovrebbero essere limitate, secondo me. Ah, lei dice le pensioni. Le pensioni, sì. Sa, le faccio un esempio. Le dico, un nostro ascoltatore ci ha mandato un sms d'accordo con lei che dice, ma perché non facciamo come in Spagna dove hanno posto il limite della pensione a 2.500 euro? A me sembra molto giusto. Lei che cosa direbbe? Sì, io direi una cosa del genere, più o meno. Adesso fare stabilire la cifra così, cioè. Stabilire una cifra fissa, basta. E a un certo momento arrivare al massimo, non so, a 5.000 euro, certo. Per dire, e poi a un certo momento calcolare bene il tutto dei numeri pensionari, quindi non ci sono più persone d'oro, non ci sono più e poi anche la contribuzione dovrebbe essere limitata anche in questo senso, nel fatto di dover pagare i contributi da parte del datore di lavoro. Una cosa è che la paghi la banca e non sto lì a guardare più di tanto, perché la banca fa pagare quello che vuole con gli interessi e quindi il ricavo ce l'ha sicuro e quindi può pagare anche di più di contributi, quindi fa per lei suoi. Comunque bisogna cominciare dalle pensioni. Io ricordo tutti che se ne va tra pensione e assistenza circa 287 miliardi di euro l'anno, stiamo parlando di una cifra molto pesante sul totale degli 800 miliardi di euro di spesa. Il problema secondo me è la enorme differenza dei trattamenti tra quelli post Dini, che saranno solo col regime retributivo, rispetto a, tra virgolette, rispetto a loro, al regalo, sia pure in conformità con le leggi allora vigenti, di chi invece c'ha il sistema retributivo, prendeva le pensioni con agganciate all'ultima retribuzione, e che io interverrei in una uniformazione del criterio, però milioni di italiani a quel punto toccati insorgerebbero, anche se è un problema secondo me di equità tra generazioni. Sentiamo Alessio da Lamezia Terme. Da Lamezia Terme, Alessio, prego, come la pensa? Buonasera, signor Giannino. Pronto? Eccoci qua, buonasera. Buonasera, ascolti, io praticamente la penso come gli altri ascoltatori, secondo me si è sbagliato in partenza il valore di cambio che hanno dato all'euro. Quelle famose 1936 lire. Esattamente, perché importando questo valore hanno aumentato il prezzo del potere di acquisto, però non hanno aumentato gli stipendi, perché chi prendeva 1.000.000 lire poi alla fine col cambio è passato a 500 euro, non a 1.000 euro. Eh sì, e quindi tu dici, con i criteri con cui abbiamo negoziato all'inizio abbiamo sbagliato innanzitutto l'ora di cambio. Allora, questo è un punto delicatissimo, nel senso, delicatissimo non solo la soglia del cambio tra lira ed euro. Il punto è che entrare in unione monetaria, che non ha unificato i mercati sottostanti, tranne quello finanziario, i mercati del lavoro, dell'offerta di beni e servizi, restano tutti separati e regolamentati a livello nazionale, come sapete. E anche i politici che dicono più Europa poi non li vogliono unificare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di questi mercati poi ha a livello nazionale degli andamenti di costo e di prezzo che sono diversi, non convergono a livello comunitario. Allora, per un paese che non può più svalutare, come è ovvio perché abbiamo tutti l'euro, c'è un'unica maniera di rimanere a quel punto nell'euro, fare la deflazione interna, cioè esattamente, come diceva Alessio, diminuire il potere reale di acquisto dei redditi, dei salari, delle pensioni. Ed è esattamente quello che è avvenuto nel nostro paese, siamo a meno 11% di prodotto pro capite rispetto al pre-crisi, perché altrimenti noi non riusciamo a reggere avendo una produttività più bassa e una finanza pubblica più larga, quindi con una maggiore pressione fiscale. Questo alla fine indurisce il colpo sulla domanda interna. Sentiamo come la pensa Mario da Roma. Prego Mario. Buonasera a tutti, sono un po' emozionato, la prima volta che partecipo. Ma no, si figura. No, quello che penso semplicemente è che entrando nell'Unione Europea, diciamo, l'Unione dovrebbe fare un po' scudo verso tutte quelle merci che vengono dall'estero che non hanno nessun controllo. Cioè, magliette che vengono fatte dai bambini. La contraffazione è quando c'è dentro anche non rispetto delle regole sociali, sindacali, di sicurezza. Esatto. Cioè, qui da noi le ditte vengono ovviamente massacrate da tutti i punti di vista. Bisogna stare attenti all'acqua, bisogna stare attenti alla appunto. Negli altri paesi, no, ovviamente. Meno. Non ci sono regole. Meno. Le merci che vengono da noi sono merci che a basso costo che distruggono il nostro mercato interno, infatti si vede perché le nostre aziende ogni giorno è uno stillicidio, non si spostano, chiudono. E quindi lei dice, intanto l'Europa dovrebbe fare meglio questo, visto che è un'area commerciale comune, proteggere tutti i paesi membri e noi per primi. Sentiamo ancora Enrico da Roma, rapidamente Enrico. Pronto? Dica Enrico. Salve, volevo dire che non sono molto d'accordo con quello che ho sentito qualche momento fa, riguardo l'euro che negli ultimi 10 anni ci ha fatto fare un salto avanti. Io non so, magari è un'interpretazione, però io penso che avere un'invasione di capitali nel settore privato, quindi un grosso debito estero, quindi la conformazione di un grosso debito estero, non penso sia un grosso salto avanti, forse è un punto di vista, perché prima o poi il conto arriva. Quindi però per lei l'euro non è stato un vantaggio? Assolutamente. Ma semplicemente è stata un'illusione che all'inizio ci ha messo in una quella che doveva essere un'elite, ma l'elite è un'altra cosa. Allora io Enrico purtroppo devo dirle, io spero che lei possa richiamarci una prossima volta, perché purtroppo dobbiamo chiudere. Certo, 8 anni di bassi tassi ce l'ha dati l'euro, e però ci siamo illusi in quegli 8 anni. Io sono completamente d'accordo con lei, torneremo su questo punto, è un punto centrale. Continuate con Radio 24, appuntamento a domani.